Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Togliete quei cartelli, per favore, deputati di Fratelli d'Italia, intervengano gli assistenti, intervengano subito. Benissimo, allora andiamo avanti. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sulla proposta di legge numero 3785-R, modifica agli articoli 52 e 59 del Codice Penale in materia di legittima difesa. Dichiaro aperta la votazione. Bene, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 225, contrari 166, la Camera approva. Allora, in tribuna non si può gridare, è possibile far allontanare chi grida in tribuna, grazie. Questa, care ascoltatrici, cari ascoltatori, era, diciamo, l'animata atmosfera oggi alla Camera durante il voto, la discussione, il voto sulla legittima difesa, che ha avuto il primo sì alla Camera, però con le opposizioni che hanno votato tutte contro e con proteste piuttosto vivaci della Lega e di Fratelli d'Italia. E poi deve passare adesso al Senato il disegno di legge. Ne parleremo questa sera con due esponenti politici, uno del PD, perché questa legge è frutto di un accordo all'interno della maggioranza tra PD e Alternativa Popolare, e dall'altra invece sentiremo un esponente della Lega, che sono quelli che hanno fatto, diciamo, la protesta più forte. Così cercheremo di capire un po' i contenuti, anche perché c'è questo disaccordo profondo. Voi lo sapete, potete interagire su questo documento e sugli altri temi della puntata di Effetto Notte sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666, 349-238-6666. Poi sempre alla Camera, ma quella americana, è passata proprio poco fa l'affossamento, l'abolizione dell'Obamacare, cioè della riforma dell'assistenza sanitaria che aveva fatto Obama. Adesso anche lì deve passare al Senato, però è una prima grossa vittoria del presidente Trump. Quindi questi sono solo due dei fatti che, come al solito, riempiono la puntata di Effetto Notte. Ce ne saranno sempre moltissimi, molte notizie che vi devo raccontare adesso nel riassunto, e poi cominceremo ad approfondire i vari temi con gli ospiti. Quindi pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri messaggi, oppure il 349-238-6666. Legittima difesa, primo sì della Camera alla legge, ma in aula scoppia la bagarre. Ora passa al Senato, si potrà sparare ai ladri di notte. Manovra, l'Italia incassa un primo via libera alla correzione sui conti pubblici dal vicepresidente della Commissione europea. Francia, Marine Le Pen contestata con lanci di uova in Bretagna e Obama si schiera ufficialmente con Macron. Stati Uniti, Donald Trump riprova ad affossare l'Obamacare col voto al Congresso e ottiene la vittoria alla Camera. Il provvedimento passa ora al Senato e il 24 maggio sarà a Roma, incontrerà il Papa e il Presidente Mattarella. Migranti, la Guardia Costiera assicura, siamo noi a indirizzare le ONG, il soccorso è un obbligo. Il Consiglio Superiore della Magistratura intanto sostiene Zuccaro, ma lo invita alla cautela. Gran Bretagna, Buckingham Palace annuncia, Filippo si ritira. Morbillo, ricoveri decuplicati al Bambin Gesù nel 2017, 385 casi ad aprile in Italia, 5 volte più di un anno fa. Google fa pace col fisco italiano, paga 306 milioni di euro, accordo raggiunto per risolvere le indagini senza controversie. Ciclismo, domani al via ad Alghero la 100ª edizione del Giro d'Italia, tra i favoriti Nibali e Quintana. Partiamo quindi dal disegno di legge sulla legittima difesa, via libera della Camera, la nuova normativa che ora passa al Senato. Nel testo si considera legittima difesa la reazione a un'aggressione in casa, negozio o ufficio, commessa di notte o con violenza, minaccia o inganno. Il giudice può escludere l'eccesso di legittima difesa quando la vittima è in preda a grave turbamento psichico derivante dall'aggressione. I sì sono stati 225, mentre hanno votato contro tutte le opposizioni ed è partita la bagarre. Tra proteste, urla e tensioni arriva il primo disco verde ad una riforma sulla quale la politica discute da anni. Le opposizioni gridano vergogna, Salvini viene anche allontanato dall'aula, PD e centristi parlano invece di svolta storica. Ma cosa prevede il nuovo testo, che dovrà comunque passare al vaglio del Senato? Punto di partenza è che vale sempre il principio di proporzionalità tra difesa e offesa e l'esistenza di un pericolo. La difesa viene sempre considerata legittima se si reagisce anche sparando ad un'aggressione notturna in casa e se si reagisce agisce in seguito all'introduzione di malviventi in casa o sul luogo di lavoro con minaccia, inganno o violenza, anche di giorno, precisa il relatore del PD Ermini. Ho letto molti giornali che hanno scritto senza leggere l'intero emendamento, si sono fermati a un punto. Dopo quel punto c'è scritto ovvero l'introduzione e non specifica giorno e notte. Di fatto la vera novità, spiega lo stesso Ermini, è che non verrà considerato colpevole chi ad esempio spara per errore, se lo ha fatto perché considerava che ci fosse un pericolo per la sua vita e perché gravemente turbato dall'aggressione. Spetterà al giudice valutare caso per caso, un testo comunque lontano da quanto chiedevano in particolare Lega e Fratelli d'Italia, per i quali la proporzionalità tra difesa e offesa deve essere sempre presunta e non decisa da un giudice. Meloni, Fratelli d'Italia. Per noi la difesa è sempre legittima. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E poi tra poco, come dicevo, qui Effetto Notte sentiremo, ci collegheremo con proprio Ermini, che avete sentito, del PD, e con Molteni della Lega. Parliamo adesso della manovra correttiva, quella chiesta all'Italia dall'Unione Europea sui conti pubblici. Oggi il governo italiano ha incassato un primo via libera dal vicepresidente della Commissione Europea Dombrovskis. Il ministro dell'Economia Padoan ha commentato il provvedimento: ci mette in regola con il quadro normativo europeo. È il vicepresidente della Commissione europea Dombrovskis ad esprimersi positivamente sulla cosiddetta manovrina di primavera. A una prima occhiata, la manovra italiana da 0,2% sembra aver raggiunto lo scopo di correzione dei conti, spiega Dombrovskis. Sappiamo che questa valutazione è particolarmente complessa, aggiunge l'esponente della Commissione, perché bisogna valutare la regola del debito e il provvedimento per il rientro dal disavanzo. Parole queste di Dombrovskis accolte positivamente da Palazzo Chigi. La correzione dei conti è contenuta ma strutturale, spiega il ministro dell'economia Padoan in Parlamento. È resa opportuna da un quadro di fattori convergenti che accentuano la percezione di un rischio Italia, testimoniato peraltro da alcune valutazioni peggiorative dell'agenzia di rating, l'avvicinarsi della fase di rallentamento della politica monetaria espansiva della BCE, approssimarsi della fine della legislatura, il debito elevato. Padoan chiede quindi all'Unione Europea di riconsiderare gli elementi con cui vengono valutati i bilanci dei singoli Stati membri. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora spostiamoci sulle notizie dall'estero, a partire dalla Francia. A tre giorni dal ballottaggio, abbiamo seguito l'ultimo duello TV tra i due contendenti, anche l'ex presidente americano Barack Obama scende in campo per il candidato alle presidenziali francese Emmanuel Macron. Invece è stata una giornata da dimenticare per Marine Le Pen. Il giorno dopo il dibattito presidenziale più teso e rissoso nella storia politica francese, Marine Le Pen raccoglie i cocci di un clima rovente. In visita in Bretagna, la Le Pen è dovuta fuggire per evitare il lancio di uova da parte di un gruppo di contestatori che l'hanno attaccata al grido di via i fascisti. Un risveglio brusco per una Le Pen che ha perso ai punti il confronto televisivo, dimostrando molta aggressività ma scarsa conoscenza dei dossier economici. L'élection présidentielle n'est pas un concours. On demande pas d'avoir des connaissances. Il presidente uscente François Hollande non ha risparmiato ironie sull'ignoranza della Le Pen. L'elezione presidenziale non è un concorso, non vengono verificate le conoscenze, quindi può accadere che, nonostante l'ignoranza, si possa essere qualificati al secondo turno, ma l'ignoranza non può permettere l'elezione a presidente della Repubblica, così Hollande. Emmanuel Macron intanto ha sporto denuncia per falso e propagazione di false notizie destinate ad avere influenza sul voto contro la Le Pen, dopo le insinuazioni fatte dalla candidata nel corso del confronto circa possibili conti offshore della rivale le Bahamas. La procura di Parigi ha aperto un'indagine preliminare. I sondaggi spingono il candidato liberale. Per il terzo giorno consecutivo guadagna punti. Ora è dato al 61% contro il 39% della Le Pen. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E dalla Francia agli Stati Uniti, dove Trump ha dato la prima spallata all'Obamacare. Infatti la Camera americana approva il progetto di legge per abolire e sostituire la riforma sanitaria targata a Barack Obama. Per i repubblicani e il presidente Trump si tratta di un'importante vittoria, con la quale viene mantenuta la promessa della campagna elettorale di disfarsi di quella riforma. Il provvedimento dovrà essere valutato dal Senato. Poi, per avere ulteriori dettagli, ci collegheremo direttamente con gli Stati Uniti. Intanto si è appreso nel tardo pomeriggio, la sala stampa della Santa Sede ha comunicato che Papa Francesco riceverà il presidente americano Trump mercoledì 24 maggio, quindi tra qualche giorno. Nello stesso giorno Trump incontrerà anche il presidente della Repubblica Mattarella in vista del G7 di Taormina. I due leader discuteranno di cooperazione unilaterale, multilaterale e relazioni bilaterali tra Stati Uniti e Italia. E poi in Gran Bretagna, con Buckingham Palace, che ha annunciato oggi che il principe Filippo, il principe consorte della regina Elisabetta, consorte da ben 69 anni, si ritira dagli incarichi ufficiali e dagli incarichi pubblici. A giugno compirà 96 anni e poi faremo un ritratto di questo uomo che ha svolto effettivamente un ruolo, quello di consorte, piuttosto inconsueto appunto da, diciamo, il mondo maschile. Di nuovo in Italia adesso, anche oggi in Commissione Difesa al Senato si è parlato di ONG e migranti, dopo il procuratore di Catania Zuccaro è stata la volta della Guardia Costiera e Zuccaro sarà poi sentito dal CSM. La Commissione Difesa del Senato continua a indagare sulle presunte collusioni fra trafficanti di esseri umani e ONG. Convocherà il PM di Trapani, che indaga su una ONG per favoreggiamento all'immigrazione clandestina, e oggi ha sentito il comandante generale della Guardia Costiera, l'ammiraglio Vincenzo Melone. L'affermazione più volte ripetuta dai rappresentanti delle organizzazioni non governative auditi, secondo cui le unità navali delle ONG opererebbero sotto il controllo della Guardia Costiera, è corretta? Melone ha posto l'attenzione sull'area di ricerca e soccorso dell'Italia, immensa di fatto, ha detto, perché Malta e Libia si sottraggono. Dove finisce l'area SAR italiana e dovrebbe iniziare quella libica, c'è un buco. Un buco dove però opera la Guardia Costiera libica, che ieri nell'audizione al Senato del procuratore di Catania Zuccaro, in una parte segretata, viene indicata dal magistrato come collusa con i trafficanti. Ma è un tema esplosivo, visto che l'Italia finanzia la Libia. Per ora il CSM assicurerà ogni sostegno possibile al procuratore, che non corre il rischio di trasferimento d'ufficio, ma potrebbe essere chiamato a spiegare le sue parole. Intanto Frontex smentisce. Nessuna collusione, dice, fra ONG e trafficanti. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E oggi pomeriggio attivisti di Forza Nuova hanno assaltato un ufficio dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni a Roma, urlando slogan, accendendo fumogeni e appendendo uno striscione contro le organizzazioni non governative. Nel frattempo il Presidente del Consiglio Gentiloni ha ringraziato chi ogni giorno salva delle vite e il Presidente del Senato Grasso sollecita inchieste rapide senza strumentalizzazioni. Ringrazio tutti coloro, volontari, Guardia Costiera, forze della nostra Marina, che ogni giorno sono impegnati nell'attività di soccorso e di salvezza in mare. Così il Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, interviene nella polemica sul caso migranti e organizzazioni non governative. L'Italia, le istituzioni, la magistratura, le forze di sicurezza, dice Gentiloni, non risparmieranno alcuna energia per togliere ai trafficanti di esseri umani il monopolio dei flussi irregolari. La magistratura, aggiunge il Presidente del Senato, Pietro Grasso, farà piena luce su eventuali opacità. Grasso non giudica l'operato del procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, ma spiega che le organizzazioni non governative hanno svolto una funzione pubblica a favore dell'Unione Europea, garantendo servizi di competenza di Bruxelles, e hanno operato in sinergia con le autorità. Dal blog di Beppe Grillo arriva una richiesta di scuse, perché si sottolinea stralci del rapporto alla base dell'inchiesta siciliana su migranti e ONG dimostrano che il Movimento e Di Maio avevano ragione e sono stati ingiustamente attaccati. L'Italia intanto, annuncia il ministro degli Esteri al Fano, il 6 luglio ospiterà una riunione ministeriale internazionale sull'emergenza migranti. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore Roma. Il tema del morbillo adesso, perché sono aumentati di 5 volte i casi, sono stati 385 ad aprile 2017, nello stesso mese del 2016, cioè l'anno scorso, se ne erano contati appena 76, e quanto emerge dal nuovo bollettino settimanale curato dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore della Sanità. Quasi 2000 i casi verificatisi da inizio di quest'anno, di questi un terzo con almeno una complicanza. A questo proposito, parlando di salute, parliamo di questo studio e di quanto ricorda l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Lavarsi le mani non è solo un gesto di igiene quotidiana, ma anche un importante strumento per prevenire il diffondersi di infezioni e combattere l'antibiotico resistenza. Sapete che ormai i vari batteri, virus resistono agli antibiotici, e questo è una grossa grana. E lo ricorda appunto l'OMS in occasione della giornata mondiale dell'igiene delle mani, che si celebra domani 5 maggio, ricordate di lavarvi particolarmente le mani domani, e il cui slogan è appunto: la lotta contro l'antibiotico resistenza è nelle tue mani. Una giornata importante, rileva l'OMS, per modificare i comportamenti e ridurre la diffusione di infezioni che possono rivelarsi letali, soprattutto quelle prese nelle strutture sanitarie. E poi Google, che fa pace con il fisco italiano, versa 306 milioni di euro, un risultato straordinario, un passo avanti fondamentale anche per i risultati che verranno, ha commentato Rossella Orlandi, direttrice dell'Agenzia delle Entrate. Per chiudere il ciclismo, col Giro d'Italia domani ad Alghero, da Alghero al Via, la prima tappa della 100ª edizione della Corsa Rosa che si conclude a Milano il 28 maggio. Tra i favoriti Vincenzo Nibali, già maglia rosa nel 2013 e nel 2016 poi il colombiano Nairo Quintana. Sul lungomare di Alghero sono sfilate una ad una tutte e 22 le squadre che andranno a dare vita da domani all'edizione numero 100 del Giro d'Italia. Da Vincenzo Nibali, che partirà col numero 1, all'albanese Ogert Zupa, che chiude la lista col numero 219. 100 volte giro per una storia ancora tutta da scrivere, ma con un canovaccio suggestivo e appassionante. Lungo tutti i 3.609 km che separano o avvicinano Alghero a Milano, dove la Corsa Rosa, dopo 21 tappe, concluderà la sua corsa il prossimo 21 maggio, c'è un po' di tutto: montagne e discese, vulcani e anche un tratto in autostrada in zona Reggio Emilia. Domani prima tappa da Alghero a Olbia, 219 km ondulate tutt'altro che semplici. Lì sarà assegnata la prima maglia rosa. Sulla carta sembra una frazione adatta agli uomini jet, ma nel finale c'è lo sporacchio di San Pantaleo, posto a una ventuna di chilometri dalla fine. Guai distrarsi o sottovalutare il finale. La Sardegna è terra accogliente ma aspra e anche la Corsa Rosa, si sa, ha le sue belle spine. Pier Augusto Stagi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Alghero. Bene, direi che il riassunto della giornata ormai è completo, quindi possiamo aggiornare chi sta viaggiando tra pochissimo e poi cominciare a trattare alcuni temi in particolare con gli ospiti. Fra poco parleremo di legittima difesa, avete sentito un po' all'inizio l'atmosfera così di bagarre che c'era oggi in aula alla Camera, dove c'è stato il primo sì, e quindi tra poco ne parleremo con due esponenti politici su due fronti opposti. Per voi, per la vostra interazione, pagina Facebook di Effetto Notte oppure gli sms e WhatsApp al 349-238-6666. Scrive per esempio questo ascoltatore: legittima difesa puoi, ma solo di notte, quindi i rapinatori possono praticare sotto tutela di legge dopo mezzanotte, quando inizia il mattino di un nuovo giorno, dice questo ascoltatore, e diciamo la polemica è proprio su questa questione della notte. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di nuovo insieme, le notizie, le più importanti, le avete sentite nel riassunto della giornata poco fa. Come sempre Roberto Giordano con voi, adesso ci occuperemo di un tema in particolare. Cominciamo con gli ospiti a trattare alcuni argomenti particolarmente in primo piano. Parleremo tra pochissimo di legittima difesa. Vedo già diversi vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte e al 349-238-6666. Dice questo ascoltatore, scrive: i cacciatori quando vanno in territori sconosciuti trovano norma di legge e distanze di legge, cartelli con scritto di vieto di caccia, in quei territori non possono entrare. Bisogna fare uguale, dice, se sulla mia porta o il mio perimetro di proprietà metto cartelli con la pistola raffigurata con divieto d'ingresso in tutte le lingue che si vuole per legge, rumeno, cinese, eccetera. Se tu entri e non suoni il campanello è un problema tuo, non mio, semplice ed efficace, giorno e notte, scrive questo ascoltatore. Poi invece su un fronte opposto Clotilde scrive: e quanti casi come Pistorius ci saranno, dice, quindi ricordate Pistorius, l'atleta paralimpico sudafricano che ha ucciso la fidanzata, poi ha detto in tribunale che pensava che fosse un ladro, in realtà in quel caso sappiamo insomma si è trattato d'altro, e ha paura Clotilde che accadano casi di questo tipo. Insomma, molti vostri messaggi su appunto posizioni diverse opposte, ne parleremo a breve con due esponenti politici. Se non avete acceso puntualmente alle 21, come sapete ogni tanto io vi ricordo i titoli principali. Legittima difesa, licenza di sparare ai ladri di notte, primo sì alla legge, caos alla Camera, Salvini espulso dalla tribuna, ora la legge passa al Senato. E poi per quanto riguarda invece la Francia, 3 giorni dal ballottaggio, lanci di uova contro Marine Le Pen, Macron la sfida in tribunale, dice: io non ho mai avuto conti offshore. Ieri nel duello televisivo Marine Le Pen lo aveva accusato di avere appunto conti nei paradisi fiscali. Obama intanto si schiera con il leader di En Marche, che è appunto Macron. E poi Google che fa pace col fisco italiano pagando 306 milioni di euro. E per quanto riguarda la manovra correttiva, l'Unione Europea promuove questa correzione dei conti pubblici dell'Italia, almeno per il momento. E poi la polemica migranti ONG, il Consiglio Superiore della Magistratura sostiene le indagini, sostiene Zuccaro, ma dice però agisca con cautela. E poi via l'Obamacare, primo sì al congresso Trump, quindi alla sua prima vittoria, ne parleremo anche di questo, e sarà dal Papa il 24 maggio. E quindi parliamo di legittima difesa. Avete sentito all'inizio appunto il caos alla Camera. Il disegno di legge è passato alla Camera, ha ottenuto quindi un primo sì con 225 sì e tutte le opposizioni che hanno votato contro, ed è scoppiata la protesta, in particolare con Fratelli d'Italia e la Lega, che hanno anche esposto dei cartelli con scritto "la difesa è sempre legittima". Poi la Presidente della Camera Boldrini ha richiamato più volte all'ordine, Matteo Salvini è l'esponente politico che diciamo ha protestato con maggior forza urlando vergogna vergogna, quindi poi è stato accompagnato fuori dall'aula dai commessi. Che cosa prevede in sintesi questo disegno di legge? Le modifiche, insomma, a chi reagirà una rapina in casa di notte sarà riconosciuta la legittima difesa, fermo restando che la reazione dovrà essere proporzionata al pericolo. E questa quindi è una delle principali novità di questa nuova normativa. Ora questo di legge, come dicevo, dovrà passare al Senato. Viene introdotto tra l'altro il principio del turbamento che esclude la colpa, ossia nella legittima difesa domiciliare è sempre esclusa la colpa di chi spara magari per errore in situazione di pericolo per la propria vita, per la propria libertà personale o sessuale, se è conseguenza di un grave turbamento psichico causato dall'aggressione. E vi ricordo che la legge è frutto di un accordo all'interno della maggioranza tra Partito Democratico e Alternativa Popolare. Non piace però neanche alla sinistra e neanche agli ex Dem, secondo i quali è propagandistica e aiuta la lobby delle armi. Sul versante opposto invece Fratelli d'Italia, che lo definisce un inganno perché non aiuterà le vittime e non essere messe sotto processo in caso di difesa. La protesta più eclatante, vi dicevo, quella di Matteo Salvini. Hanno votato contro anche i 5 Stelle, che dicono che il dibattito sulla legittima difesa è stato puramente basato sulla propaganda elettorale e non sulla realtà. Per il PD invece è un provvedimento che tiene conto della domanda di sicurezza dei cittadini, evita il Far West, così anche dice Alternativa Popolare, che dice la nostra vittoria a tutela della famiglia. Però visto che appunto non c'è accordo e c'è stata anche questa protesta forte, allora sentiamo dai diretti interessati due esponenti politici come Davide Ermini, deputato del PD. Buonasera Ermini. Buonasera, buonasera a lei. E Nicola Molteni, deputato della Lega Nord. Buonasera Molteni. Collega Ermini. Bene. Buonasera Nicola. Bene, bene, vedo che troviamo nel dibattito ormai. Siamo abituati dei dibattiti. Bene, quindi vi sento piuttosto caldi tra di voi, nonostante le proteste e il disaccordo in Parlamento. Allora, Molteni, comincerei da lei e spiega che cos'è che non le piace in questo disegno di legge. Ma, non ci piace nulla. Noi siamo partiti da un presupposto, ovvero dalla richiesta di sicurezza e di ordine pubblico che emergono dai territori. Abbiamo sempre ritenuto che la sicurezza fosse una prerogativa da parte dello Stato, tocca allo Stato garantire sicurezza. Evidentemente, se lo Stato non garantisce sicurezza in determinati luoghi e in determinati contesti, ad esempio nell'abitazione o nel domicilio o sul proprio luogo di lavoro, se lo Stato non esercita questa propria attività, c'è il sacrosanto diritto da parte del cittadino di potersi difendere, esercitando un principio e un diritto, quello della legittima difesa, che già esiste nel codice penale nostro. Noi abbiamo ritenuto, con la nostra proposta di legge che abbiamo presentato oltre 2 anni fa, di migliorare gli effetti della proposta di legge sotto 2 punti di vista. Da un lato, dare più garanzie, dare più diritti a chi si difende all'interno della propria abitazione, partendo da un presupposto che il domicilio è sacro e inviolabile e in quanto tale va difeso sempre, e dall'altro lato quello di limitare il potere discrezionale del magistrato, in modo particolare con riferimento a quello che noi riteniamo essere il nodo, il problema principale dell'attuale normativa, ovvero la proporzionalità tra difesa e offesa. La reazione di chi reagisce ad un'aggressione, secondo il testo attuale, deve essere proporzionale all'offesa di chi porta aggressione all'interno di questa abitazione. Del motivo per cui abbiamo fatto una proposta di legge, ripeto, presentato 2 anni fa, in cui affermiamo un principio, cioè quello della presunzione assoluta di non colpevolezza rispetto a chi si difende all'interno della propria abitazione, nel momento in cui difende il bene e il valore principale, che è il bene della vita, nel momento in cui viene aggredito. Chiaro. La nostra proposta è stata completamente stravolta, arrivando oggi a questa legge che io la definisco, l'abbiamo definita una truffa e un inganno. Oggi si sono ingannati diversi parlamentari che hanno votato questa legge, io credo che non inganneranno però i cittadini italiani. Io oggi non ho ancora trovato un commento positivo, non da parte della politica, ma da parte di esperti del diritto, sulle modifiche che sono state votate oggi in Parlamento. Poi ve lo cito, il presidente della Camera Penale di Roma, quello che dice, poi c'era anche una dichiarazione dell'avvocata Buongiorno. Davide Ermini, invece voi ovviamente apprezzate, l'avete fatta con un accordo con Alternativa Popolare, no? questa legge, come risponde alle obiezioni di Molteni? Io rispondo che prima di parlare bisognerebbe sempre studiare e leggere quello che c'è e quello che è stato fatto. Purtroppo sento fra i commentatori che non si è letta bene la norma, sento che viene detto che la difesa legittima scatta solo di notte, cosa che è falso, perché nella legge che è stata approvata oggi si parla certo del tempo notturno, ma successivamente c'è un ovvero, che vuol dire in tecnica legislativa oppure, quando l'aggressione avviene sempre, quindi con violenza sulle persone, sulle cose, con minaccia o con inganno. Quindi questa storia della notte è una bufala che qualcuno si è inventato e tutti gli altri gli sono andati dietro. Però basta leggere il testo, io l'ho pubblicato su Twitter, l'ho messo dappertutto, ho fatto interviste per spiegare che non è vera questa storia della notte, ma purtroppo oggi è stato tutto un parlare solo della notte. Vabbè, comunque questo è. Vorrei dire che gli elementi costitutivi della legittima difesa sono l'attualità del pericolo, la necessità della reazione e la proporzione frazione reazione. Nel 2006, con la norma della Lega, la proporzione all'interno del domicilio è stata ritenuta presunta, quindi la proporzione all'interno del domicilio non c'è già più dal 2006, cioè un cittadino può sparare, tanto per intendersi, ad un ladro in casa senza pensare se quello sia armato o meno, e questo esiste già. Noi abbiamo, con questa norma approvata oggi, specificato quali sono i termini, quando è che si può considerare legittima difesa, e abbiamo appunto inserito le aggressioni notturne, le aggressioni con le violenze in ogni momento e le aggressioni con inganno e minaccia. In più abbiamo fatto una norma che non fa parte del 52, quella del turbamento psichico. Questo va chiarito, perché sennò si crea confusione. Il turbamento psichico è inserito nell'articolo 59, cioè noi diciamo: se il giudice ritiene che non sussistano gli elementi per poter prosciogliere per legittima difesa perché manca uno di questi requisiti, il giudice può valutare che ci sia stato un grave turbamento psichico causato dall'aggressione del delinquente che interviene, e un soggetto rimane turbato e, pur pensando che ci fossero i requisiti e in realtà non ci sono, può essere scusato con l'articolo 59 e quindi può essere dichiarato non punibile. Quindi abbiamo dato un'ulteriore possibilità al giudice di togliere il cittadino dalla responsabilità. Chiaro, Ermini. Voglio chiedere a Molteni, a proposito del turbamento psichico, come diceva Ermini, effettivamente poi diventa difficile in tribunale dire che non era turbata quella persona che ha sparato, no? Nel senso, o no Molteni? Nel no, senso, ma credo uno che dice... sia l'osservazione... L'osservazione è assolutamente corretta, che ed è l'osservazione che oggi tutti i commentatori stanno facendo, sia per quanto riguarda il turbamento psichico, che addirittura deve essere grave. Quindi questa gravità di un turbamento però psichico, la persona che ha sparato può dire ero gravemente turbato, se lo era, sì, effettivamente, anche questo, se non lo fosse stato, tutto sommato. Peccato no? Che questo grave turbamento psichico però deve essere poi valutato ex post rispetto ai fatti, quindi successivamente, giorni dopo, attraverso delle perizie, attraverso delle valutazioni che devono essere fatte dal magistrato. Guardi, noi perché è difficile inficiarlo, modo, però un turbamento psichico, io dico, così, io credo che questa ulteriore aggiunta che è stata fatta all'articolo 59 aggraverà ulteriormente l'attività di indagine da parte del magistrato. Noi daremo maggiormente lavoro al magistrato, e questo che cosa comporterà? Comporterà il fatto che il cittadino che era in casa sua con la propria famiglia, con la propria bambina, nel proprio luogo abituale, in serenità, di tranquillità, nel momento in cui viene aggredito e si difende, dovrà comunque sempre dimostrare davanti a un magistrato il motivo per cui ha esercitato un legittimo diritto. Guardate che difendersi all'interno della propria abitazione, e la nostra proposta andava esattamente in questa direzione, deve sempre essere un diritto, mai un reato. Il cittadino continuerà, che si difende, continuerà ad essere messo sotto processo, continuerà ad essere indagato, continuerà ad esserci l'eccesso colposo di legittima difesa, se si difenderà potrà essere chiamato addirittura a risarcire il danno. In poche parole, non sarà chiaro con la proposta di legge votata e approvata oggi e voluta dal Partito Democratico quale comportamento il cittadino all'interno della propria abitazione potrà tenere o non potrà tenere al fine di difendere il bene principale, che è il bene della vita. Io credo che sia stato creato un disastro giuridico, le cui conseguenze ricadranno ancora purtroppo sulle spalle di quei poveri cittadini che hanno il diritto di potersi difendere. Erminio, ancora un minuto e mezzo per lei, perché siamo proprio in chiusura. Che ha fatto Molteni, e con tutto il rispetto e l'affetto e l'amicizia che ho per Molteni, che ho sentito prima, non è corretto, sì. Non è corretto, perché lui ha parlato di legittima difesa domiciliare, dove già la proporzione non esiste più. Quindi non è vero che io non posso difendermi in casa se ho i figli, sono a tavola. Quindi in casa si è legittimati a sparare. In casa non c'è già più dal 2006 la proporzione. Non raccontiamo cose che non sono vere. La proporzione è già presunta dal 2006. Noi stiamo parlando, il turbamento psichico non c'entra nulla con la legittima difesa. Va a toccare l'errore. Non confondiamo le persone. Il turbamento psichico è un elemento ulteriore quando gli elementi per la legittima difesa non sono sufficienti a scagionare il soggetto. Allora il giudice ha un altro elemento in più, che è quello di dire, allora nonostante tu non potessi avere la legittima difesa, io ti prosciolgo lo stesso, perché mi rendo conto che eri in preda al terrore che ti ha causato quell'altro, ma non c'entra nulla con il domicilio, perché il domicilio, la proporzione del domicilio non c'è già più dal 2006. Guardavo alcuni messaggi, poi ci lasciamo. Per esempio Antonio dice: stranamente mi sorprendo sempre nel vedere la cialtronaggine dei nostri politici, per non dire paraculismo, perché per pensarla in questo modo ci devi aver studiato la notte o sei talmente ignorante da non ricordare che non esiste un orario specifico nel quale un'azione si possa considerare rapina. Francesco: come al solito l'Italia oscilla tra due mali imperituri, buonismo e forcaiolismo. Certo, la questione sicurezza è molto più ampia e non si risolve in tal modo, ciò non toglie che ognuno debba avere il sacrosanto diritto di proteggersi. E poi invece Cristiano dice: l'idea che la difesa sia solo legata a aggressioni notturne è una macchietta quasi penosa, ma il discorso è più ampio. E poi insomma vari messaggi. Floriano dice: meglio che niente questa legge, ma si poteva spingere di più. E invece qualcun altro dice: si rischia il far west. Insomma, ancora diciamo schierati su fronti opposti. Io spero, Davide Ermini e Nicola Molteni, che si riuscirà ad arrivare al Senato, diciamo, a un accordo più completo. Grazie onorevole Molteni, grazie onorevole Ermini, buon lavoro a voi. E adesso direi di prenderci questa pausa, brevemente c'è la pubblicità e poi ritorno con altri argomenti e poi con i vostri messaggi sempre appena letti, pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349-238-6666. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state seguendo Effetto Notte, lo sapete, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Ritorniamo allora a parlare dei fatti principali, che tra poco vi ricorderò per quelli che sono i titoli in primo piano. Abbiamo parlato lungamente di legittima difesa, l'abbiamo fatto con due esponenti politici, Molteni di Lega Nord, Ermini del Partito Democratico. I vostri messaggi continuano sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte, alla quale potete aderire senza indugio. E poi c'è il numero per WhatsApp ed SMS, che è 349-238-6666. Ora io mi chiedo a questo ascoltatore, che manco mette la sua firma, metti anche il nome d'arte, dice: fate schifo, siete solo schiavi del regime, il 99% delle persone pensanti dice che questa legge è un obbrobrio, al di là di quello che dicono le persone, che sia il 90%, 99%, 1% eccetera, che tutti hanno diritto di pensarla come vogliono. Fate schifo a chi? Schiavi del regime a chi? Che abbiamo avuto due esponenti politici su due fronti opposti, hanno parlato tutte e due tranquillamente. Veramente non capisco a volte se a pasto qualcuno beve qualche bicchiere in più, forse. Comunque adesso ci occuperemo d'altro, alleggeriamo un po'. almeno dal nostro punto di vista, ci trasferiamo tra poco in Gran Bretagna con un annuncio che è arrivato oggi da Buckingham Palace. Però se non avete acceso puntualmente alle 21, ricordatevi tutte le sere dalle 21 alle 22 effetto notte, non perdetevi neanche un minuto, in modo che un giorno non potrete dire io non lo sapevo quella notizia, perché se ascoltate effetto notte sarete aggiornati costantemente tutte le sere. I titoli principali, quindi: legittima difesa, di cui abbiamo appena parlato, primo sì alla Camera alla legge, ma in aula scoppia la bagarre, ora passa al Senato, si potrà sparare ai ladri di notte, anche se c'era l'esponente del PD che dice non è vero che soltanto di notte. Manovra, l'Italia incassa un primo via libera alla correzione sui conti pubblici dal vicepresidente della Commissione europea. Francia, Marine Le Pen contestata con lanci di uova in Bretagna, e Obama si schiera ufficialmente con Macron. Stati Uniti, Donald Trump riprova ad affossare l'Obamacare con il voto al Congresso, ottiene la vittoria alla Camera, ora passa al Senato, e il 24 maggio sarà a Roma dove incontrerà il Papa e il Presidente Mattarella. Migranti, la Guardia Costiera assicura, siamo noi a indirizzare le ONG, il soccorso è un obbligo, il CSM sostiene Zuccaro ma lo invita alla cautela. Gran Bretagna, Buckingham Palace annuncia, Filippo si ritira, ne parleremo tra pochissimo. Morbillo in Italia, ricoveri decuplicati al Bambin Gesù nel 2017, 385 casi ad aprile in Italia, 5 volte più di un anno fa. Google che fa pace col fisco italiano e paga 306 milioni di euro, e per il ciclismo domani parte ad Alghero la 100ª edizione del Giro d'Italia. Ma noi adesso appunto passiamo alla Gran Bretagna con il principe Filippo, il principe consorte della regina Elisabetta da ben 69 anni, che si ritira. Oggi l'ha annunciato Buckingham Palace, e probabilmente Filippo, che a giugno compirà ben 96 anni, ha comprensibilmente pensato che era il momento forse di andare in pensione. L'annuncio c'è stato dopo il vertice convocato di emergenza dalla Casa Reale. Filippo non avrà più incarichi ufficiali, sono confermati gli impegni invece della regina. E poi oggi c'è stata una terribile gaffe del tabloid del giornale Sun, che ha scritto Filippo è morto, però il duca di Edimburgo dovrebbe essere abituato, essendo lui stesso un insuperabile gaffeur, come ci racconterà adesso, così delineandoci il profilo di quest'uomo, Enrica Roddolo, giornalista del Corriere della Sera, esperta di teste coronate e famiglie reali sulle quali ha scritto diversi libri. L'ultimo si intitola Sì, matrimoni reali, matrimoni regali. Cara Enrica, buonasera. Buonasera. Quindi, ecco, a parte poi andare sulle gaffe incredibili che a volte hanno creato anche gli incidenti diplomatici di Filippo, molti si sono preoccupati, hanno pensato alla sua salute. Certo, avere 96 anni ha il suo peso, no, in questa scelta. Sì, poi questo vertice convocato un po' all'improvviso da Buckingham Palace, alla Royal Household di Buckingham Palace, ovviamente ha insospettito. E capiamo anche il perché di questo azzardo del Sun, che l'ha portato appunto a fare questo scivolone. Ma in realtà forse è semplicemente stato dettato dalla necessità di evitare fughe di notizie, leaks, come dicono gli inglesi, che altrimenti sarebbero inevitabilmente successi. E quindi, un po' a sorpresa, è stato convocato questo meeting, alla fine del quale è stato annunciato appunto che il Duca di Edimburgo, il principe Filippo, uscirà dalla scena pubblica, o meglio, rinuncerà ai royal engagements con i quali è stato impegnato sin qui, e pensiamo che dall'inizio dell'anno, di questo 2017, sono già 25 gli appuntamenti ufficiali che si è sobbarcato alla bella età di quasi 96 anni. Semplicemente in futuro accetterà o meno di così ogni tanto prendere parte a qualche appuntamento di vita pubblica, ma ufficialmente lascia gli impegni ufficiali. E questo vuol dire che gli impegni che oggi gestiva Filippo saranno distribuiti più o meno equamente nel resto della famiglia reale. Si sa che la staccanovista di casa è sicuramente la principessa Anna, la Princess Royal, amatissima anche per questo dalla regina Elisabetta, sua madre. Ma sicuramente molti toccheranno al principe Carlo, che si prepara lentamente ad arrivare al trono, quando la regina, sua madre, riterrà. Concederà. Senti, Enrica, ovviamente anche William e Kate. Ecco, ti volevo infatti chiedere questo: può essere un, diciamo così, un preambolo questo ritiro di Filippo anche a un eventuale prossimo ritiro di Elisabetta, o fino all'ultimo giorno eviterà a Carlo di diventare re? Ma come ripete sempre la regina, It's a job for life, è un lavoro che si fa per la vita. Questo. Come il Papa, ma neanche persino il Papa si è ritirato, no? Il Papa precedente, quindi insomma. Però sì, la regina. Il Papa, ma la regina, io ho qualche dubbio che abbia veramente il desiderio di farlo. Piuttosto, comunque, certo è vero che l'uscita di scena di Filippo apre un percorso en souplesse per l'avvicendamento con il principe Carlo quando sarà il momento. E a proposito di famiglia reale al lavoro, non dimentichiamo che Filippo fu lui a definire la Royal Family the firm, la ditta. E quando arrivò, appunto sposando la regina Elisabetta nel 47, che all'epoca appunto non era sicuramente ancora regina, sarebbe diventato nel 52 con l'incoronazione e poi nel 53, rivoluzionò subito il clima di corte, desideroso di portare un po' di novità in questa corte polverosa, in questa casa Windsor molto legata alla tradizione, scontrandosi pesantemente tra l'altro con la Queen Mother Elizabeth Bowes Lyon, che per molto tempo era stata un po' la protagonista delle vicende anche di governo in sottotraccia, ovviamente agli ultimi anni di vita di re Giorgio VI. E appunto, e alla fine coniò questa definizione, la ditta, questa non è una casa, non è una famiglia, è una ditta. Si lavora tutti con questo disegno preciso e alla fine, insomma, però la ditta ha resistito fin qui. Quindi... Caspita, sono stati estremamente longevi, non solo come ditta reale, no? Quindi nei loro ruoli, ma anche proprio a livello esistenziale. Lui ha quasi 96 anni, la regina... La regina ne ha compiuti 91, ecco, e si prepara a metà giugno a festeggiare. Che mangiano? Cosa mangeranno? Sarebbe una vera curiosità capire le loro abitudini, stili di vita, eccetera. Beh, intanto posso dire che Filippo ha sempre avuto una predilezione per le salsicce, predilezione condivisa con la regina, fino a quando la salute gliel'ha permesso, e durante l'estate a Sandringham o a Balmoral era lui stesso a occuparsi del barbecue, una passione che l'ha sempre... Beh, non l'avranno mangiate tutti i giorni probabilmente. No, l'hanno mangiata tutti i giorni, no. E poi ama molto anche la selvaggina, giustamente, come un buon con un buon esponente di casa Windsor, insomma, dove la Scozia ovviamente molto presente, e Balmoral è una delle loro residenze del cuore. Senti Erika, interessante anche tornare un po' sul ruolo piuttosto inconsueto dal punto di vista maschile, diciamo, di Filippo, perché nel mondo e nella storia purtroppo è sempre toccato, diciamo, più alle donne di essere le consorti sorridenti, un po' dietro le quinte. Certo, in effetti hai ragione. Come precedenti possiamo citare il caso del principe Alberto di Saxe-Coburg, il marito della regina Vittoria, anche qui una regina per giunta, non soltanto lei sovrana e il marito semplicemente principe consorte, ma una regina forte quanto in termini di personalità, di profilo istituzionale, quanto la regina Elisabetta. E questo creò all'epoca, era la metà del 1800, un serio problema di convivenza corte al principe Alberto, tant'è vero che si scontrò con l'intero establishment ministeriale del tempo, ci furono dei ministri che dissero: ma insomma, cosa si è messo in testa di fare questo principe consorte? Vuole mica governare lui al posto della sovrana? E quindi lui si ritagliò il suo spazio vitale organizzando la famosa exhibition universale, quella passata alla storia per il Crystal Palace nel 1851. Il principe Filippo non ha avuto, se vogliamo, neanche questa soddisfazione, perché appunto ha vissuto veramente una vita, un passo indietro rispetto alla regina Elisabetta, e l'ha fatto anche con un grande senso di responsabilità, insomma, non cercando particolari rivincite, non ha neanche provato, come fece appunto il principe Alberto, a trovare un'occupazione parallela, un qualcosa. Ma a questo che proposito, scusa, Enrica, tutto il gossip che c'è sui suoi tradimenti coniugali, ma non dimentichiamo sicuramente che è stato un uomo di grande fascino, soprattutto appunto quando era più giovane, ma ancora oggi, insomma, a 96 anni si può dire che porti egregiamente piuttosto bene, piuttosto la sua bene, età. Sì. Ci dici la sua gaffe più nota, perché appunto è noto molto, no, nel mondo, anche per le sue gaffe, a volte forse perché ha detto in modo troppo diretto le cose che pensava. Ma visitando paesi del Commonwealth si è spesso dilettato con battute sul colore della pelle degli abitanti di un certo paese piuttosto che altre amenità. Sembra che addirittura incontrando i futuri appunto il padre e la madre di Kate Middleton, che prossima a entrare nella famiglia reale con le nozze della loro figlia con il principe William, abbia scherzato su che cosa facciano le hostess e gli steward a bordo in volo, ricordando appunto la vita professionale di Carol Middleton, che fu appunto una hostess della British Airways prima di inventarsi con il marito il business di Party Pieces, che poi la quale sono diventati. In questo non si è fatto mancare molto, insomma, di queste sì. battute, di queste uscite. Comunque, insomma, lunga vita a Filippo, visto che finché c'è tempo lunga c'è speranza. Vita, 96... Luca di Edimburgo, che comunque da qui a fine agosto, quando dismetterà ufficialmente il ruolo appunto ufficiale, i suoi engagement, royal engagement, ancora un'agenda molto fitta di appuntamenti. Beh, quindi complimenti. Insomma, sì. Lunga vita e buona salute per riuscire a reggere in piena forma ai prossimi appuntamenti. E lunga vita alla regina. Grazie Enrica Rodolo. E lunga vita alla regina. Grazie a voi. Buona ciao Enrica. Sera. Ciao. Faircam Distribution, la soluzione adatta per la spedizione dei vostri prodotti in Italia e in Europa. Faircam.com vi presenta... Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Ve le ricordo ancora tra pochi secondi le notizie principali. Intanto ringrazio gli ascoltatori che stanno scrivendo messaggi di complimenti dopo il messaggio, un po' di insulti dell'altro ascoltatore. Per esempio ringrazio Gianluca, poi dice a proposito dei reali di Inghilterra, di Gran Bretagna, dice ma grazie, non fanno un cavolo tutto il giorno, grazie che arrivano a 90 anni, sfido io che campano tanto, mica tante preoccupazioni, devono andare a lavorare come noi. Beh, questo è chiaro che facendo una vita diciamo un po' più privilegiata, un po' più rilassante, è chiaro che probabilmente si vive anche di più. Poi dice invece un altro ascoltatore, ecco anche quest'altro complimento, poi un altro ascoltatore dice un pensionato di 80 anni come si difende da un immigrato di 20 anni alto 2 metri a parolacce, ma insomma poi comunque quando passerà al Senato questa legge sulla legittima difesa avremo modo nel frattempo di tornarci nuovamente e di capire effettivamente quali sono i punti principali. Prima avete sentito comunque due esponenti politici, uno del PD e uno della Lega, che hanno detto quali erano le loro posizioni e quali erano anche gli aspetti discordanti tra di loro. Continuate con i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte o al 349-238-6666. Intanto vi ricordo appunto che in primo piano ci sono la legittima difesa con il primo sì alla Camera, ma in aula è scoppiata la bagarre, soprattutto la protesta della Lega. Ora passa al Senato e si potrà sparare ai ladri in casa di notte, anche se questo aspetto è stato contestato poi invece dal esponente del PD, che dice che non è vero che solo di notte. Manovra, l'Italia incassa un primo via libera alla correzione sui conti pubblici dal vicepresidente della Commissione europea. Francia, Marine Le Pen contestata in Bretagna con lanci di uova, mentre Obama si schiera ufficialmente con Macron. Stati Uniti, Donald Trump riprova ad affossare l'Obamacare e ha la vittoria alla Camera. Adesso il provvedimento passa al Senato, dopo dovremo riuscire a collegarci con gli Stati Uniti per sapere qualcosa di più e anche magari di questa visita che Trump farà il 24 maggio a Roma, dove incontrerà sia il Papa che il Presidente Mattarella. Continua la discussione sui migranti, sulle organizzazioni non governative. La Guardia Costiera assicura, siamo noi a indirizzare le ONG, il soccorso è un obbligo, mentre il Consiglio Superiore della Magistratura sostiene il procuratore di Catania Zuccaro, ma lo invita alla cautela. In Gran Bretagna, ne abbiamo parlato poco fa, Buckingham Palace oggi ha dato l'annuncio che Filippo di Edimburgo, principe consorte della regina Elisabetta, si ritira da ruoli pubblici e da incarichi. Morbillo, ricoveri decuplicati al Bambin Gesù, all'ospedale Bambin Gesù. Nel 2017 385 casi ad aprile in Italia, 5 volte più di un anno fa. Google che fa pace col fisco italiano e paga 306 milioni di euro. E poi per il ciclismo, domani al Via d'Alghero, la 100ª edizione del Giro d'Italia. Fra i favoriti ci sono Nibali e Quintana. E poi adesso c'è una notizia che riguarda proprio il Giro. Due corridori del team Bardiani al Via domani, appunto al Giro d'Italia numero 100, sono risultati positivi ai controlli antidoping a sorpresa effettuati da Luci il 25 e 26 aprile scorso. Figuriamoci se manca un episodio di questo tipo, sono stati immediatamente sospesi. Si tratta di Nicola Ruffoni e Stefano Pirazzi. L'Unione Ciclistica Internazionale, appunto Luci, informa che i test avrebbero evidenziato la presenza di ormoni. Anche la squadra, una delle 22 ammesse al giro, è tutta composta da italiani, rischia a sua volta una sanzione non appena la vicenda finirà all'esame della commissione disciplinare. Quindi questa è una prima notizia negativa che riguarda il Giro d'Italia, 100ª edizione che parte domani. E poi, mentre aspettiamo di collegarci con gli Stati Uniti, la linea è un po' difficoltosa, e vi do questa dichiarazione di Trump che esulta, dice Obamacare. Quindi la riforma sanitaria di Obama è stata una catastrofe, ora è morta. Così Donald Trump alla Camera dei Rappresentanti, che ha approvato il testo che abolisce e sostituisce la riforma sanitaria di Barack Obama. Dice: un grande piano, sono fiducioso che passerà anche al Senato. Così ha detto Trump alla Casa Bianca, con tutti i deputati repubblicani che si sono congratulati, in particolare con lo speaker, con il rappresentante dei repubblicani al Senato, che è Paul Ryan. E poi dice invece un altro ascoltatore, ritornando ai messaggi al 349-238-6666, soprattutto i reali inglesi non hanno nessuno che li stressa come il mio capo, e anche questa non è una cosa da poco, bisogna dire. Bene, allora vediamo se riusciamo a collegarci con gli Stati Uniti. Niente, c'è un problema evidentemente di linea. E allora torno ancora sui vostri messaggi, sempre sulla legittima difesa. Abbiamo sentito, insomma, quali siano i punti discordanti tra il PD, che insieme alla maggioranza Alternativa Popolare ha trovato l'accordo e ha fatto passare quindi la legge alla Camera, e invece la posizione della Lega. C'è per esempio un altro ascoltatore che è Simone, dice: sarebbe stato meglio non votare nulla che far finta di cambiare le cose per dare ascolto ai populisti. Mentre Walter dice: quindi a pranzo, se entra un rapinatore, dovrò offrirgli pure una pasta asciutta. Insomma, diciamo che avremo modo di ritornare su questo argomento quando starà passando al Senato. Adesso non so con quali tempi precisamente. Sicuramente invece non riusciamo a raggiungere gli Stati Uniti, ogni tanto può succedere. Quindi direi che, visto che è scaduto il tempo, possiamo lasciarci qui, poi ci risentiamo giusto per riaggiornarci alle 22:00.